Polish24. Buonasera da Marta Cagnola, questa sera è inevitabile, parleremo del grande evento di ieri, il matrimonio tra William e Kate. Avevamo anticipato un po' i grandi momenti dell'attesa nella scorsa puntata di English 24, ma questa volta li festeggeremo al nostro modo, sentendoli parlare abbiamo recuperato la loro prima intervista ufficiale, ma sicuramente non sono da sola. Sono da sola in studio perché la nostra Giulia Crivelli è, manco a dirlo, a Londra. Buonasera Giulia. Buonasera. Subito commentiamo cosa è successo da quelle parti, che impressione ha fatto questo matrimonio agli inglesi e poi a te, visto che sei anche un'esperta di moda, cosa mi dici del vestito? Credo che la cosa che ha fatto più impressione è stata quella che è stata vista come una grande emozione da parte della regina. Oh, chi l'ha visto ha visto che era una statua di cera, però quando è scesa la carrozza ed è dopo che è finito il matrimonio, che l'hanno riportata a Buckingham Palace per poi fare la grande uscita sul balcone, lei è uscita e ha detto "It's amazing", perché l'avete visto, la folla era oceanica. Allora questa semplice parolina, beh, in realtà sono tre, "It's amazing", è stato visto come la regina emozionata. E il vestito, beh, il vestito tutti contenti che alla fine la stilista fosse Sarah Barton, continuavano a dire i commentatori che l'idea comunque l'aveva lanciata lei, la Kate Middleton, e però insomma alla fine la realizzazione è tutta English made, e secondo poi altri commentatori questo farà subito scattare le imitazioni del vestito. Ci saranno delle imitazioni un po' cheap per le ragazze che si vogliono sposare vestite più o meno come Kate. Beh, qualche anno fa, 30 anni fa, tutte avevano le maniche a sbuffo di Lady Diana. Tutto sommato non va male con questo bellissimo abito di Kate Middleton, ora duchessa di Cambridge. Ma come dicevamo, abbiamo recuperato la loro intervista ufficiale, nella quale per la prima volta hanno parlato del loro fidanzamento. Quindi facciamo un brevissimo salto indietro nel tempo e scopriamo come William ha chiesto la mano a Kate. Okay, people are obviously incredibly curious about you. So let's start with the obvious. William, where did you propose? When? How? And Kate, what did you say? It was about 3 weeks ago on a holiday in Kenya. We had a little private time away together with some friends, and I just decided that it was the right time, really. We've been talking about marriage for a while, so it wasn't a massively big surprise, but I took her up somewhere nice in Kenya and proposed. It's very romantic. There's a true romantic in that. There is. And you said yes, obviously. Of course, yes, yeah. Thankfully. And you knew you were going to do this from day one of the holiday, or you waited till the end? I'd been planning it for a while, but as every guy out there will know, it takes a certain amount of motivation to get yourself going. So I was planning it, and then it just felt really right out in Africa. It was beautiful at the time, and I had done a little bit of planning to obviously show my romantic side. Eccoci qui Giulia, come William ha chiesto a Kate di sposarlo. L'intervistatore dice subito che la gente è stata molto curiosa di sapere queste cose a lungo tempo. Come possiamo spiegare, come possiamo tradurre questo tempo verbale che ha usato l'intervistatore? Lui dice "people have been incredibly curious about you", quindi curious about you, nessun problema, essere curiosi su di te, noi diciamo essere curiosi di te, ma è più o meno come in italiano. Per questo have been curious ci dà l'idea, sappiamo questo present continuous che è una cosa che continua, appunto present continuous, da moltissimo tempo, tutto sommato insomma erano 8 anni che erano fidanzati, perciò è chiaro che la coppia suscitava grande curiosità, e quindi dice "let's start with the obvious". Questo "let's start" è come "let's go", vuol dire è una specie di autoimperativo che in inglese si usa molto, che vuol dire "e quindi cominciamo dalle cose più ovvie". E quindi "when did you propose", quando hai chiesto la mano a questa benedetta figliola che ti ha atteso tanto a lungo? Erano in Kenya, quindi non erano in Inghilterra, forse questo non si era ancora saputo, o meglio l'avevano detto, però appunto quando hanno dato questa intervista è stata novità. They were away together with some friends, e lui dice "it was the right time", e devo dire che in tutta l'intervista, forse si sente anche solo ascoltando l'audio, sembra proprio una persona normale, voglio dire normale perché prova le cose come, e lo dirà più tardi, come tutti i ragazzi quando fanno, quando appunto propose, quando they propose, quando fanno la proposta di matrimonio alle loro ragazze. Eh sì, le portano in un posto carino, tutto sommato come ha fatto William. Sì, I took her out somewhere in Kenya. E anche qui abbiamo l'espressione verbale di prima, we had been talking about marriage for a while. Qui addirittura è il past present continuous, quindi era tantissimo tempo che ne parlavamo, quindi conferma anche questo, no? Perché la povera Catherine è stata anche battezzata Waity Katie, cioè la Katie che aspetta, perché insomma era un bel po' che aspettava. Beh, effettivamente lui dice, io ci stavo pensando, lo stavo organizzando da un po' di tempo, mica poco probabilmente. I've been, anche qui di nuovo lo stesso present continuous, I had been planning it for a while, per un pochino, while può essere anche pochi minuti, noi sappiamo che invece probabilmente è un bel po', e poi dice qui appunto come accennavo prima, as every guy there out there would know, come tutti i ragazzi sanno quando viene poi il momento di dire will you marry me, e beh l'emozione è tanta. E le ragazze, chissà se se lo aspettano ogni volta, chissà se se lo aspettava Kate. I really didn't expect it at all. I thought he might have sort of maybe thought about it, but no. It was a total shock when it came and very excited. And you produced the ring? Yeah. There and then? I did, yeah. I'd been carrying it around with me in my rucksack for about 3 weeks before that. You'll hear a lot of horror stories about proposing and things going horribly wrong. It went really, really well and yeah, I was really pleased that she said yes. And it's a family ring? Is a family ring, yes. It's my mother's engagement ring. So I thought it was quite nice because obviously she's not been around to share any of the fun and excitement of it all. This is my way of keeping her sort of close to it all. And I guess we better have a look at it. What kind of ring is it? Are you an expert on what's... I'm not an expert on it at all. I've been reliably informed it's a sapphire with some diamonds. But I'm sure everyone recognises it from previous times, so... Non fosse per questo Sapphire and Diamonds, questo zaffiro e diamanti dell'anello che poi appunto Kate mostra, davvero sembra la storia di due ragazzi normali, di una proposta di nozze normale, Giulia. Sì, e lei è, lo sentiamo, no? Un po' dimessa. Io credo che lei abbia un po' scelto questo registro, perché probabilmente insomma lei è una molto sportiva, non è una timidona in realtà, però ha scelto questa aria da ragazza molto sognante e romantica. Durante il matrimonio tutti hanno un po' notato che quasi sussurrava anche quando ha detto I will. Comunque lei dice didn't expect it at all, però invece poi lui la corregge, dice insomma we had been talking about marriage, so it was lei dice it was a total shock when it came. Noi non ci crediamo molto, ci permettiamo di non crederci. Beh, un total shock forse è un po' troppo, dopo sì. 8 anni per qualsiasi fidanzata, ecco. Qui gli chiede, qui notiamo l'uso della parola, l'intervistatore dice a William, chiede a Kate, did he produce some ring? O produce vuol dire produrre, però in questo caso è tirare fuori. Quindi quando ti ha chiesto will you marry me, visto che eravate in Africa e sappiamo anche che anello le ha offerto, ma lui le chiede, te l'ha fatto vedere in quel momento? Ebbene sì, lui se lo portava nello zaino, quella favola di zaffiro straordinario che abbiamo visto ovviamente prima sulle mani di Diana e poi sulle dita di Kate, lui ce l'aveva nello zaino, perlomeno ce l'ha detto lui. Sì, anche questo è molto carino, dice I had been carrying it around, quindi se lo portava nello zaino da tanto tempo, perché trovava cercava quel famoso right time, right moment. E, tra l'altro qui rucksack, notate, perché questo è molto inglese, un americano avrebbe detto backpack, comunque il significato è lo zainetto. Che poi sono due ragazzi molto sportivi, quindi me li vedo che fanno trekking lì in Kenya, poi a un certo punto lui tira fuori l'anello di zaffiro e diamanti. E ce lo vedo anche preoccupato per le horror stories che gli avevano raccontato gli amici, delle storie terrificanti sugli insuccessi e i momenti tragici del momento in cui uno mostra l'anello e appunto chiede mi vuoi sposare, lì invece è andato tutto bene. È arrivato quest'anello, l'intervistatore dice, ma ce lo fai vedere? E lui risponde anche qui, insomma, con un po' di understatement, beh, è un family ring. E noi in realtà appunto sappiamo, anche perché qui a Londra poi ogni negozietto ha un'imitazione o di plastica o magari non di plastica, cioè per tutti i livelli di prezzo. È uno dei tantissimi, immagino, souvenir che in questi giorni tu hai visto a Londra. La scorsa settimana parlavamo del tè delle nozze, sì. E credo ci siano gadget di tutti i tipi. E la cosa carina è che l'intervistatore dice: ah, ma che bell'anello, ma non so se sei un esperto di cosa si tratta. Lui sa solo che dice my mother's engagement ring, non sappiamo quello di Lady Diana, per il resto I'm not an expert, dice, non sono esperta, but I've been informed, mi hanno detto che it's sapphire and diamonds, zaffiro e diamanti. Noi siamo sicure che Kate invece sa bene che anello ha al dito, perché lo guarda sempre con molto orgoglio, giustamente. Ma giustamente. Ma ascoltiamo ancora un ultimo brevissimo estratto da questa intervista, perché vogliamo sapere poi com'è andata col papà di Kate. When did you ask Kate's dad, and what did he say, and what did your respective parents say when you told them? Well, I was torn between asking Kate's dad first and then the realization that he might actually say no dawned upon me. So I thought, if I ask Kate first, then he can't really say no. So I did that way around and managed to speak to Mike sort of soon after it happened, really. And then it sort of happened from there. Kate, what did your mum say? Well, I think as any mother would be, she was absolutely over the moon. And actually had quite an awkward situation because I knew, and I knew that William had asked my father, but I didn't know if my mother knew. So I came back from Scotland, and my mother made it sort of, didn't make it clear to me whether she knew or not. So both of us were there, sort of looking at each other and feeling quite awkward about it. But it was amazing to tell her, and obviously she was very happy for us. La madre, she's very happy for us, forse un po' più che felice, anche perché le male lingue dicono che in realtà la madre avesse proprio programmato un po' la carriera della figlia per farla arrivare a William, però credo come gran parte delle madri inglesi con delle figlie di quell'età. Ma andiamo per ordine, come ha fatto a parlare con Mike, visto che lo chiama così amichevolmente? Qui è bellissimo, poi insomma il papà è un bellissimo uomo, secondo me, l'ho visto down the aisle, giù dalla chiesa stamattina, ieri mattina, e beh, insomma, effettivamente la Kate gli assomiglia, ma la cosa carina è che William dice I was torn between Kate first, cioè ero proprio anzi straziato, perché to be torn letteralmente è quello, tra chiedere a lei prima e poi al padre, perché se lei mi avesse detto di no, poi cosa avrei potuto fare? Oppure se avessi chiesto a lui e lui mi avesse detto di sì e poi lei no, insomma alla fine ha detto no, chiedo prima a lei, così se mi dice di sì è sì e poi chiedo a lui, quindi in realtà Kate sapeva quando poi William ha chiesto e lui in quel momento ha detto he can't really say no, quindi lui non poteva più dire di no, e viceversa lei non avrebbe potuto più dire di no. E la temibile suocera? La temibile suocera pare abbia saputo dopo, e quindi l'intervistatore chiede appunto what did your mother say? E Kate risponde she was not moved, che vorrebbe dire emozionata, ma over moved. Ci crediamo, anche se in chiesa devo dire sembrava quasi, quasi più fredda della regina, forse le hanno detto che bisogna sembrare, gli aristocratici fanno così, nascondono le emozioni. È probabilmente vero, per noi però purtroppo è finito il tempo radiofonico, lo diciamo senza emozione alcuna per sentirci un po' aristocratiche anche noi. Ringrazio Giulia in collegamento da Londra per parlare di questo matrimonio reale, alla prossima settimana però in studio, ciao Giulia. Ciao, alla prossima settimana. Io vi ricordo l'appuntamento in edicola con il nostro mensile English 24. Vi ricordo anche che dovete iscrivervi alla nostra pagina Facebook. Ringrazio Mauro De Angeli in regia. Da Marta Cagnola l'augurio di una buona serata.